questo Decathlon dà la possibilità di comprare cose di marca anche a bassissimi prezzi, o comunque prezzi diciamo abbastanza abbordabili. Lo so, ci vuole passione, una volta comprata la sacca ci vuole passione. Va bene, adesso mettici la tutta dentro e poi inizi ad andare a correre anche tu. A correre, mi mettono a correre, ma io ho tutta una serie di hobby, perché non li chiamo sport, perché secondo me tira segna non è uno sport, nel senso che vedi la maggior parte sono fuori forma, comunque almeno fisica, però diciamo che mentalmente ti scarica molto. Ma io a prendere cena sto facendo la solita cicletta, poi adesso è arrivato anche questo cacchio tapirulando e quindi sto cimentando un po' in questa cosa e ti dico che non ce ne ho pochissimo, è che ho questa faccia enorme, però già va bene, giusto per tenere un po' in allenamento le braccia, perché ho questa periartrite, quindi devo cercare di fare movimento proprio di ginnastica senza strafare, senza tirare pesi eccetera. Va bene, dove sia ancora lì? Negativo, adesso sono di fronte alla facoltà di agraria in via d'Italia, in croce via d'Italia. No, ti stavo dicendo, se vuoi un giorno, se hai voglia, ti porto a fare tirassegno dinamico, che è una cosa, ti ripeto, ti scarica dal punto di vista mentale, nel senso che proprio esci fuori spossato e liberato, diciamo. Fisicamente poi gli esercizi, per quanto puoi fare esercizi, qualche corsetta, no? Se poi torni a casa e ti mangi l'inverosimile, non serve a niente come sport, almeno quello. Ma con quella cosa che hai visto dentro il cassetto, ti la segno così? Beh, certo. Si può fare, sì. Cioè, ce l'ho con quello sportivo. Ce l'ho preso quando abitavo via Pasqua, giusto così mi andavo ogni tanto. Sì, se sono in compagnia già mi piace, andarci da solo non mi va. L'avere un'arma a casa e possedere un'arma è una grossa responsabilità, perché da determinate situazioni devi sempre impari a dover tenere la calma e eviti sempre di arrivare sempre al limite. Perché davvero uscire di testa ci vuole poco, arrivare a casa, prenderla e riuscire. Quindi vabbè, non è il mio, ce l'ho già qualche anno. Ti ripeto, andavo con Franco, poi ci siamo un po' ritirati, altri hobby, altre cose, poi ho avuto trasferimento, quindi mi sono un po' allontanato e ho lasciato stare. Poi tra blocco, ballo in mare adesso perché sono lontano, capito? Prendere la macchina, scendere, magari mi frena un po' quello, ma prima ero vicino, ci andavo spesso con Franco, capito? No, già è lì dentro il cassetto, non c'è problema. Adesso mi accapolano, la usiamo, facciamo un po' di botti. Occhio. E comunque, no, invece mi sono reso conto di quanto in poco tempo ho speso, forse un po' troppo, ho investito in apparati, in baracchini e cose. Mi sono organizzato una mini stazione sparviera, ma sarà un quinto della tua, considerando che tu quanti metri ne hai? Quindi lineare la prima è 2,50 per 90 e l'altra è 1,50 per 90, quindi la L considera. No, vabbè, io ho preso due tavole, come mi hai consigliato, in laminato, già pronte, perché dovrei stare lì a levigarle, a dargli il mordente, dopodiché il flatting, non abbia gana. Ora ho preso una tavola da 1,20 m per 60 m, di su è lo stesso come lunghezza, la zona quella con i 320 per 40. E lì sopra ci ho messo gli alimentatori e sotto ho messo le radio. Però obiettivamente ne ho comprato troppe. Troppe, davvero, non so dove metterle. Certo. Poi tante poi intanto ne accendi una, intanto ne accendi un'altra, io non so quale, ce le ho tutte accese. Però chiaramente non è che puoi usare tutte in contemporanea, quindi le fa solo bene tenerle accese. Un bel commutatore d'antenna, lo faccio io, ti commuti da una all'altra, almeno un commutatore a 3, a 4, ma a 3 è più che sufficiente, 2 HF e un baracchino. E le usi, perché sì, quello è un ottimo sistema. Io purtroppo le radio sono molto, molto larghe, quindi con gli amplificatori eccetera l'hai visto, e quindi l'ho dovuto fare da 90, ma l'altra chiave era da 60, col piano da 40, con il piano da 40, capito? Invece questo, il piano da 60, quello su che mi ha fatto Giulio, e l'altro è da 90, dove ci stanno anche bene i microfoni, ti appoggi per scrivere e tutto, capito? Era un progettino che abbiamo fatto assieme con Giulio, è una bella cosa, ma così come l'hai fatta tu va bene. I piedi quali hai preso, quelli che ti ho detto io? No, negativo piedi, non ci sono piedi. Io ho messo le staffe triangolari a muro con tassello chimico. Ah, buono, buono, buono. Buono, buono. Ma no, io farò anche l'altro lato, così sopra l'ho fatto. Giusto per i baracchini. Però il sistema è questo, per poter arieggiare bene le radio, dare la possibilità di appunto passare il panno eccetera. Il sistema è questo, ho visto da tanti, perlomeno usano sempre questo sistema, capito? No, ti sentito Luca di lei, ho trovato quel 2725 della ICOM, che se vuole glielo prendo, però mi deve dare l'occhio lui, non c'è problema con Luca, se vuole glielo prendo, è nuovissimo, tra l'altro di un animatore, quindi l'ho usato pochissimo, è già tutto memorizzato, pronto all'uso, tu già lo conosci. Ne vuole 200 euro tu, 200 euro col microfono, quello di TMF, con la tastiera, quello lì, cosa dici? E guarda, solo il microfono, quello lì costa 45 euro, vedi tu, il prezzo suo, va benissimo, il prezzo suo buono, nel senso che quello lì stanno andando a ruba, non l'hanno più fatto, perché come tutti gli apparati che durano una vita, e più o meno come il 140, il 440, sono apparati che uno una volta che ce li ha chiuso, capito? E allora tolgono fuori produzione. Mentre invece, continuando a parlare, saltando di palo in frasca, sono un po' girato con gli alveoli con un pomponio, e spero che sia all'ascolto, perché mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Gli ho messo le staffe, e c'è andato a mettere l'antenna e ha svittato la staffa che c'era attaccata al muro col chimico. Dice che si è fatta la filettatura, certo che si è fatta la filettatura, il chimico fa così, è al pari di un drone, no? Ci fai la filettatura col dado, se vai a svittare non esce. Il problema è che non deve avvittare, cioè più di tanto. Per le pratiche con le radio, ma il montaggio delle antenne mi sa che da molto a desiderare. Beh, è normale, no? Se è un tassello chimico, se parliamo di tassello chimico è chiaro che deve funzionare in quella maniera. Lui non va a fare altro che allargare la tappa, entrare dentro il palo e tirarla su, cosa deve fare? Perché l'ha svittata. C'è rimasto tutto dentro il muro, è per forza, è importante che non esca il muro col coso, sì, mi sembrava strana, dicevo, ballava, no, ballava. Se tu vai ad avvistare, è come se invece si fosse fatta la filettatura, no? Quindi lui è andato, l'ha girato al contrario e ne è uscito. Sì, ma perché l'ha girato al contrario quando bastava allargare solo la fascetta praticamente, il portantenna, chiamalo come voi, entrare il tubo dentro e metterlo a posto, cosa doveva fare? Ma infatti non è uscito il chimico, cioè non è uscito né il pezzo del muro né tantomeno il chimico, è proprio lui ha svittato letteralmente dal muro il tassello. È normale che quello ne esce, come adesso potrebbe andare a riagganciarlo, qui era un tassello comunque, una barra da 8, 10, adesso non so che cosa, è. Cazzo, quell'antenna pesa 2,5 kg. cosa ci voleva? Ma con l'antenna va bene anche lì, se va lì vedi che gliela dritto subito, capito? Si prendono i tiranti nuovi e si mettono bene i tiranti, va bene anche così l'antenna, lui è fissato che ne scende o non ne scende, come deve scendere. Se il tubo è buono, il tassello è buono, soprattutto quando è chimico, così l'abbiamo piazzato la mano noi, senza tiranti e senza niente, col tassello chimico. E tra l'altro ce ne sono due, perché lui ha fatto il sistema che ti ho detto io con l'altra VHF gemella della tua. L'ha messa attaccata sotto con la tappa paro paro e c'ha l'antenna VHF e la ringo uguale a quella. Quindi non capisco, vabbè. Non commenta tanto, non commenta, non commenta. No, ma io cosa ho fatto adesso, guarda, per mettere queste mensole, ho preso una barra filettata che è anche sottodimensionata, ma se no non entrava nei buchi delle mensole, perché erano, è una barra da 6 o da 8, comunque è fine, abbastanza fine. Ho bucato il farattino, l'ho riempito perché non avevo calze di chimico, gliel'ho affogato dentro avvitando, come se stessi avvitando, anche se poi è molta quando vado a avvitare. Ma a tempo 20 minuti, come ho avvitato la cosa, la mensola, ho detto, io la radio non ce la metto su finché non sono stato in fila, allora se prendo una culata in terra è meno che se sfascio due radio. Allora cosa ho fatto? Ho preso e mi ci sono seduto sopra. Beh, stiamo parlando di 70 kg, manco ci ho detto. Ma anche le radio si appesa un po', non c'è problema, le puoi mettere tranquillamente. Una volta che ho messo la tappa così, col tassello chimico, no, non è che è facile che ne scenda, capito? Va bene, dai, ti lascio che vado a cenare, ti auguro il buon proseguo di questo, buon proseguo di serata, risaluto a Pulicina che sicuramente è lì con te e ci aggiorniamo, grazie delle due chiacchiere. Ma grazie a te, no, l'ho appena vista che ha trovato parcheggio, invece io sto girando sotto casa sua e non so se ne trovo per almeno 10 minuti, comunque dai, se ci sentiamo dopo mi fa piacere. Buona carica batterie e nel caso buon 144 se non vuoi entrare dopo. A dopo, ciao ciao. Tanto ciao, grazie. Quanto è che pesa una bombola piena? Da 15. 30 kg. tenuta, no? K, ma e ferie non ce ne hai, no? Dove vai? A Capolanno dove te ne vai quest'anno? Camminando. Dove vuoi andare? Ah, perché ti devi fidanzare. Ma quando è che ti fidanzi? Qua. Ascolto, io a fidanzarmi, io trovo a scrocco. Fai bene, le fai bene. Non hai sentito nessuno? Cattivo, nessuno. Va. Non è lavoro per tutti, no, guarda. Ci vuole anche un po' di professionalità. Non è lavoro, sono contatti che devo fare. Beh, è lavoro di responsabilità, è lavoro comunque manuale, ma anche di testa, cioè l'ha saputo fare. Devi sapere ciò che stai facendo anche, non è solo attaccare la bombola. Se succede qualche problema devi capire che cosa è. Non è Guscino. Che c'ha i suoi rischi. Tant'è vero che la maggior parte non stanno più, cioè si stanno allacciando, perché sicuramente la bomba è un po' più pericolosa, Tutti dimmi la devi si stampa anche tu, vedi un casino che fate. È già successo a Sassari, non eravamo nati né io né tu. Vicino a Piazza Tola era saltato un capacchino. Già me lo ricordo che l'hanno detto un po' di persone. Era successa una cosa del genere. Però è così, quel lavoro ci vuole responsabilità e bisogna sempre un po' capisci i dati va fatto. Tu capisci i dati, sì. Bene. Cava. Ma hai sempre fatto questo di lavoro, sì? È quello. Da ragazzino sempre quello. Fatti Roger, scusami che ho una bassa, un attimino riprendo subito. Dai, ti lascio, a tu, dai, che devo fare un po' di cosette qua, dai. Ciao, mi ha fatto piacere. Piacere mio, ci sentiamo al più presto, dai. Se ci sentiamo anche dopo. A dopo, ciao. Se ce la faccio entro. Capo. Protetta. Stai arrivando tu una bomba e veramente, veramente l'amico non lo sento, sento qualcosa in sottofondo. Come sta modulando la fontana Nietta? Su, su. Attenzione, Fontana Nieta, si ascolti Porto Torres. Ascolti Porto Torres, Fontana Nieta. Poteva avere chiuso. Attenzione amico di Fontana Nieta. Ia, ti sta chiamando Porto Torres, lo senti? Sente bene, sangue? Vabbè, lui mi sente bene, ma io... Nada, nada de nada. A me come mi senti? Probabilmente l'antenna, che antenna sto usando? Ah, scappa cazzo. Ma sei in camion modulando? Tu che stai parlando con Sasso, hai là? Ma non ti senti, ma solo il perché ma non ti senti? Ossia, sento qualcosa in sottofondo, però non riesco, diciamo, a... Non riesco a tirarlo fuori. E non è questo il regolato dell'apparato? Che apparato stai usando? Ah, 64. Ma tu hai un buon apparito. Se ci vuole qualche scarpetta sotto. Ma ho già. Può essere buono l'apparato, però se non c'è. Se non c'è antenna. Vabbè, sì. Sandro, dimmi a tu. Ecco, mi copri Gianni, dico se ci vuole qualche pillola, tu adesso c'è una farmacia sotto. Esagerato. Mi copri. Sei il tuo solito. Non mi credo. Ah, già, ti ho sentito sotto. Sì, arriva la bomba, non so cosa stia usando. Dove sei, via degli astronauti? Fitto. Dove sei, via degli astronauti? Già. Yeah. Ma va, cosa sarà? 2000 watt. Aspetta un attimino. Gianni, fai un passaggio. Hola? Ah, no, un passaggio un po' più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, leggermente sotto, però ti ho sentito assolutamente. Se alzo il volume, riprovate un attimino e di qualcosa che ti dico cosa hai detto. Vediamo un pochettino. Ah, crode, attenzione. Crode. Riesci a coprirlo leggermente perché parli. Se stai in portante muta ti passa di brutto. Esagerato. E qui la portante muta già e tu vai in sovramodulazione. Si sente la voce sotto, ma si sente assolutamente. Cosa stai mettendo? Cosa c'hai? Viagra. No, già, tu stai uscendo bene, stai uscendo come al solito, ma lui sta arrivando devastante qua. Ma è anche a Porto Torres, il fatto è quello. Sto usando 1000 watt. Sì, 10.000 ne sto usando. Sto uscendo con circa 20 watt. Con 50 di picchi di modulazione. Mentre che si sente sotto cosa sta raffreddando? La pentola che senti sottofondo, quello lì è per raffreddarmi i piedi. Siccome sono uscito dalla palestra e mi ho fatto la doccia, allora mi sto raffreddando i piedi. Secondo me te li brucia i piedi quella pentola, eh? Vabbè, via come vuoi. Dottore, se ogni tanto c'è un abbassamento di luce, bisogna dire a Fabrizio di dare qualche girata di maneccia. Signori, io uso l'approvvigionamento del sole. Io quello, ma non di notte. Vabbè, di giorno, di notte vado con le batterie. Hai la, come si chiama, l'isola, nel senso che ti carica delle batterie. Eia. Tappa. Quanti ne hai di kilowatt? Ehi, quanti kilowatt devo avere, scusami, crote. Accendo, non di scarpette, solari. Solari? quello è un kilowatt e mezzo. Gianni, oggi era la giornata da coso, da frittura mista, ci uscivamo di brutto. Oh, non avevo caso, sto freddo eccetera, c'è un po' umidità. Bisogna trovare una giornata bella, andarci tutto il giorno, ma se poi devo portare mia moglie a cena, come faccio a venire? Leone, anche tu, ma io te l'ho detto, almeno fai bella figura io. Ma quando mai? Il sabato dove stai andando? A pescare. Ti ho mai detto dove devi portare a tua moglie o che cosa? Non ho capito questa qua. E tu cosa ne sai se la porto la domenica, non il sabato? Assolutamente, ma il sabato è più indicato, se vuoi fare bella figura, poi attenzione, non mi chiedo veni e non mi permetterei mai, era un consiglio, evidentemente l'ha sentito e ti ha detto cosa. Ma come faceva a sapere se eri mai? È vero che non eri ancora rientrato. E vabbè, comunque prendilo per buono. Ma guarda, io ho passato il periodo che andavo venerdì, sabato e domenica a ballare, quindi... per anni, no, un giorno. Adesso mi sono un po' calmato, ma prima ci andavo sempre. Andavo in pizzeria, andavo a ballare, andavo qua a lavorare, adesso un po' mi sono stancato, mi sto un po' rilassando. Sono in manero della situazione. Mentre invece il sabato io mi organizzo una rostita perché ho trovato da Bricoman questa specie di girarrosto che di solito alla cavalcata, lo trovi alla cavalcata, quello in esterno, e costa una barca di soldi, tipo te lo vendono una sessantina di euro, se non fai 40. Ora l'ho trovato a 24 euro, e lo voglio inaugurare con un porcettino che compro a coso, a Porto Torres, dal macellaio di fiducia. Quelli sono inquinati, eh? Quello di... aspetta, come si chiama? È possibile che si chiami Mannoni o Bianco? Mannoni lo conosco perché noi abbiamo il figlio che lavora da noi. Quello che c'è prima della piazza del comune, no? Confermi, Alessandro. Ah, guarda, non lo so. Ti direi una bugia, tu. Guarda, a Porto Torres si è più nominati solo i carboni. Ecco, sì, esatto, Carboni, quello me lo ricordo che hanno proprio l'azienda lì, non so se ancora ce l'abbino lì per andare verso Campanetta, Carboni, uno mi sembra che sia in via Balai e uno mi sembra che sia in piazza e l'altro mi sembra che sia vicino a San Gavino. È uno in via delle Vie. E comunque, porcetto schironato e dopodiché a girare per un paio d'ore. Sì, ma bisogna saperlo fare. Come funziona lì? Fa 220. Di solito quelli che trovi alla cavalcata invece sono a 12 o comunque ci devi mettere la batteria, un po' una rottura di base. Mentre invece questo qua l'ho aperto, come mio solito quando compro le cose subito, e dentro c'è il motorino che trovi poi nelle cucine, capito? E non riesci a bloccarlo, eh. Io ci ho provato con le mani, minchia, c'è una demoltiplica devastante. Ma il tocco finale del maialetto lo sai qual è? Devi dare una scaldaccia, cioè gli devi mettere, gli dai un po' più di calore alla fine per fare la cosa, la cottenna. No, bocciato. Claudio, tu adesso vuoi sapere troppo, se ti dico il trucco poi guai. Per che cosa? Per ottenere la cottenna o per dargli l'ultimo colpo di cottura? Allora, di media, un maialetto, prendiamo un maialetto di 5-6 kg, hai, spiego in quel modo lì, più o meno quanto tempo di cottura gli devi dare? 4 2. Allora, con 2 ore lo bruci, con 4 ore sei già nella media. E allora? Poi c'è il tocco finale. Gli dai una scaldata a fargli la cottenna? No, la cottenna tu gliela dai nei tempi della cottura, nelle 4 ore tu la cottenna gliela dai. Però c'è un particolare, il tocco finale. Mettere il lardo lo devi scaldare e far scendere le gocce sopra la cottura. Bingo! scaldare la, il coso, come si chiama? Il coso del diavolo, chiamano una specie di cosa che brucia e fa scendere il lardo bruciato, cioè che sta ancora bruciando. Esatto, e quello è il tocco finale, capito? A parte diciamo che diciamo dà sapore alla carne, alla cotenna, poi saporisce diciamo la carne. Aspetta un attimino, una volta che lo, che gli, perché devo dire la verità, io so cucinare quasi tutto a livello di carne, però non ho mai fatto il, cioè la pancetta mi esce benissimo, però il porcetto non l'ho mai fatto intero. Una volta che tu gli metti lo spiedo, il calore come deve essere? Al pari di, della pancetta oppure molto di meno? Invece è lontano dal fuoco, fa cucinato la fiamma lenta, diciamo. Cioè lontano dal fuoco quanto? Quando invece l'ha attaccato sotto lo brucia, lontano, come ti posso dire, un braccio, ecco, un braccio lontano. Io l'ho sempre fatto così, lasciato 4 ore e poi buttato la, il grasso, l'olio del, del grasso sotto, mi è sempre venuto bene. Addirittura io lo faccio così. Allora, spiedo elettrico e cammino. Fa così. Quindi 4 ore addirittura. 4 ore è un bene. 4 ore è un bene, ma vuole farti girare piano piano, un po' lontano, di modo che scaldi, ma non bruci. E poi inizialmente quando lo infili nello spiedo, lo devi lasciare infilato nello spiedo in una posizione, per dire, o di spalle o dalla parte della pancia, lo devi lasciare almeno circa una mezz'oretta, perché in questo modo diciamo la carne comincia ad asciugarsi, a gocciolare, e la carne si stringe intorno diciamo allo spiedo per evitare che tu, quando gira lo spiedo, giri insieme al maialetto, perché molti, cosa succede? Fanno così, lo mettono e comincia a girare e lo spiedo non fa più attrito nella carne, quindi tanto vale che ci sia. Anche lì però c'è un metodo che ho visto fare, cioè gli metti delle traverse, lo stesso di ferro. Siccome fai tipo cucitura quando infili lo spiedo, diciamo nella parte che è all'interno, ci metti 2 spiedini di ferro. No caro, non ci va niente. I spiedini di ferro li metti sul pollo, quando cucini il pollo. Sul maialetto non usi i piedini di questi bloccaggi, legature o palle varie. Tu infili il ferro. Comunque, in conclusione, ascolta, fa una cosa, organizzati, poi tutto al più veniamo io e Gianni e te lo cuciniamo. Te lo mangiamo qui? No, ma con piacere, il problema è che Gianni non gli basta un porcetto, cosa gli fa? E a maggior ragione tu prendi un porcetto e un agnello, va bene già? No, ne prendi due la stessa cosa. Ma no, io mi ricorderò sempre una volta che sono andato vicino a Nuoro, a Budoni. Eravamo invitati per Capodanno, no, non per Capodanno, per Pasqua a Pasquetto. Siamo arrivati lì, c'erano tutti i porcetti sopra questa rete di letto, filando, e poi nello spiedo, però fatto proprio artigianalmente, lo spiedo fatto con il legno filtrato, appoggiato al muro, tipo capanna, così, e col fuoco sotto. Non esagere questi porcetti, ma serviti con il grasso di sughero, ma una bontà, erano quelli croccanti, buonissimi. Già lo so, ma tutta la cottura sta diciamo nella cotenna croccante, sta diciamo nei tempi di cottura, ma diciamo vabbè, io c'è mia moglie diciamo che è delle parti di Nuoro, quindi io ho imparato tramite qua mio cognato, tramite mio compare, che loro usano fare questi livelli. Che mia moglie è delle parti di Nuoro e tutti i cugino è norese, la mamma è di Orani, fa gli rottelli, quindi tutti i parenti sono norese. il cugino adesso abita qua di punti, quando ci facciamo il corcetto ci facciamo le orate che peschiamo, lo puoi vedere, al fuoco, sempre una bontà. Abbiamo fatto anche un capretto una volta, anche la pecora è buona fatta così. A proposito, stavo dicendo, per l'agnello non avete nessun tipo di consiglio? No, adesso aspetta con i consigli, No, Gianni, Roder vuole portarci via i nostri metodi. E poi se proprio vuoi dare un po' di sapore, se è del mirto, quando sta cucinando li passi d'olio con il mirto sopra, l'olio sempre del lardo, e lo passi sopra col mirto e per il sapore del mirto e del lardo insieme. Parlando di mirto in foglia o mirto da bere? Mirto in foglia, naturalmente, la pianta. Sì, ma Gianni, c'è anche un particolare. Il lardo logicamente deve essere quel lardo di un maiale, per dire, di campagna. Non lardo che troviamo, per dire, sui banchi dei supermercati, Naturalmente. Deve essere fatto in casa, più è di casa e più è saporito. Perché quello è molto ma molto importante. Quindi, Grode, vedi, stasera stai ascoltando un qualcosa di genuino. Grazie, assolutamente. Adesso bisogna vedere poi come lo riesco a mettere in pratica, dai. Vediamo un attimino, ma cosa, voi che siete intenditori, cosa viene a costare, cosa dovrebbe venire a costare un chilo di carne di maiale a porcetto, diciamo? Un chilo di carne di maiale a porcetto? Io adesso attualmente di questi periodi non lo so il porcetto al chilo quanto venga, ma in previsione, diciamo, del Natale, penso che il porcetto non sia meno di 8-9 euro al chilo. Gianni forse ne è più a corrente. O la bistecca può costare un tot, diciamo, il porcetto cosa viene a costare al chilo? 9 euro. 9 euro è di solito un porcetto, quanti chili sono? Se lo vuoi buono, 4,9 kg, 5 kg al massimo. Chili, chiaramente ne posso prendere anche la metà e 3-4 persone ci mangiano con la metà, sì. Cazzo. Metà di 5 kg sono 2 kg e mezzo, 5 persone ci mangiano. Gianni, rifiutiamo, non ci andiamo più. Tutti a dieta li mette, ecco che campano intero, a domattare i compiti. Ti viene male anche a fare allo spiedo. Ma come ti viene male a farlo allo spiedo, scusa? Se non spiedo solo ti viene male a mettere due metà e aperto in due, come fai a farlo? E pone l'intrigo a vedere. Scusa un attimino, Claude, ma tu cosa volevi fare? Cucinare metà, prima metà e poi cucinare un secondo tempo l'altra metà? Volevo andare in macelleria e dirgli mi dia una metà di, me la dà una metà di porcetta, lui mi dice sì, paga alla cassa, dopodiché torno a casa e ne faccio una metà. Sì, ma metà di un maialetto, considerando che 5 kg intero, 2 kg e mezzo non bastano quasi per due persone. E cosa ti stai mangiando? Qua ti stanno facendo l'applauso, non siete da invitare allora, non è questione di essere zecchi, no? Se ti mangi 2 kg e mezzo di carne in due, vuol dire 1 kg e mezzo a testa. Sì, ma renditi conto che 2 kg e mezzo, quando tu, prima di cucinarlo lo vedi un attimino voluminoso, quando lui è cucinato, che si restringe logicamente un po' la carne e così via, non pensare, diciamo, che ci rimanga tutto questo granché, capito? Anche tu in effetti è così, poi considerando che ci sono le ossa e le parti non edibili, sicuramente hai ragione. Però dico questo, come fai a mettergli lo spiedo quando sono due metà, quando è aperto, quando è spaccato in due? Ecco questo, ecco, vedi, lì c'è l'altro inghippo, c'è il sistema. e tramandiamo questi segreti, tramandiamoli. Anche perché io farei la cosa più semplice, da un buco lo farei entrare, da un buco lo farei uscire. E vabbè, quello senza ombra di dubbio, da una parte lo entri, dall'altra lo esci, perché lo devi fermare sullo spiedo. Qui non ci piove, ma logicamente va infilato in un modo particolare. Io poc'anzi cosa ti ho detto? Ti ho detto che prima di farlo girare, tu una volta che infili lo spiedo, lo posi sullo spiedo, incominci, già il fuoco ce l'hai già fatto, lo tieni circa un metro di distanza, lo metti in una posizione dritto, lo lasci asciugare, circa una mezz'oretta. Quando vedi che sta incominciando a prendere un po' di colore, non dico tanto, ma un po' di colore, che la carne sta incominciando a restringersi sullo spiedo, succede che lì tu le puoi fare qualche mezza girata e cominci a riscaldare l'altra parte, la parte diciamo delle spalle, la parte esterna, e lì continua la carne ancora a stringersi sullo spiedo, perché se tu lo butti dentro allo spiedo, lo fai girare, lo spiedo gira vuoto, il maialetto non ti gira, giusto? Rogero, però non mi avete ancora spiegato, considerando che è spaccato in due ed si mantiene dalla colonna vertebrale, giusto? Come fai a spiedarlo? Come fai? Gianni! Bisogna prenderlo e farlo vedere, se no mangiano carne cruda. Mi sa proprio che l'iniziativa sia quella. La cotenna mi sa che non si verrà proprio. Fare in modo che non si muova, lo metti in terra e devi fare in modo che non si muova, tutto lì. Ci vuole altro per quello. Io la verità in terra non l'ho mai fatto, però a metà sì, il cugino di mia moglie già lo sa fare, l'ha fatto anche in terra, perché una volta sono andato a cena e stava girando nell'ospedale là in terra. Ci vogliono le traverse, come stavo dicendo io. Non è traverse, non lo spiede buco, c'era, lo spiede buco, solo che sa tutto infilare, capito? Esatto, tutto sta nel sistema, Crode, nell'infilarlo e cercare di farlo bloccare lo spiedo sulla carne, capito? Farlo asciugare, tu la carne la devi far asciugare, la devi abbronzare in modo che si restringa la carne sullo spiedo, in modo che tu quando lo metti, lo fai girare, il maialetto gira assieme, diciamo, al spiedo. Roger, ho capito. Questo l'ho capito, assolutamente seguirò questo consiglio, perché la fretta di farlo girare subito, indubbiamente, dopodiché rimane il buco, il maialetto fermo e il coso che gira. Inventarti qualcosa per bloccarlo, il classico stecco di legno, il classico pezzo di ferro per stringerlo, diciamo, allo spiedo. Ne ho visto più di una volta. Io, vabbè, ti ripeto, io perché li ho visti, diciamo, da mio compare, diciamo, dai miei cognati. Figurati che io quando mi sono sposato in paese, avevano cucinato i maialetti e gli agnelli a tipo fuoco a centro, poi i maialetti con lo spiedo infilati per terra e il fuoco tutto in giro. Roger, scusate un attimino, sto facendo una bassa un attimo. Comunque a metà è poco. Cosa hai detto? A meno che ti compri un porcettone. No, massimo 2,5 kg per metà, diciamo. Se dovessi provarlo, prenderlo per provarlo, 2,5 kg, 3. Sì, non vuole grasso, è troppo grasso nel viaggio. La media sono dei 5-6 kg, massimo 6 kg, perché 6 kg poi già incomincia a essere già un porcettone. 5 kg, o massimo 5 kg. Poi è troppo grasso nel viaggio. Perché quando sono secchi sono già grassi. Vabbè, ho già un po' di grasso, ci vuole pure. Ci vuole giusto per insaporire, diciamo, la carne. E poi, diciamo, col metodo, diciamo, dell'ardo, sgocciolarli il lardo sopra, ecco lui, diciamo, che lo insaporisce. poi una spruzzatina di sale non li fa male, non tanto, ma insomma. Sì, sì. Io mi fa anche passare il mirto sopra, buttargli il grasso del coso, delle lardo sopra il mirto e poi passare lo tipo pennello. Sì, molti usano diciamo questo metodo qua. E come io, diciamo, adesso già un bel po' di tempo fa, quando eravamo a paese, ero andato nello spuntino con mio compare, al momento quando siamo in un ovile, sono arrivato, ho visto questo fuoco a centro, bello, un fuoco, caso che non finiva mai, non vedevo niente in giro che cucinasse, che cosa, e avevano fatto il caffaretto proprio sottoterra, il classico col mirto, tutto avvolto col mirto, e il fuoco sopra e così via. Ma tu dovevi assaggiare sta roba, guarda, micidiale. Quello ho mangiato, anche quello, l'ho mangiato di abudonico, quello lì, fatto sottoterra. Ok, figurati che lì, allora, adesso no, allora loro non conoscevano, per dire, le budella, il classico zimino che mangiamo noi, almeno che mangiavamo, io adesso sono da parecchi anni che non lo mangio più. Addirittura mi ricordo che mio compare aveva macellato un vitello e tutto lo zemino così via lo stava buttando, e infatti gli ho detto scusa un attimino, ho detto, oh, ma perché lo butti? Come perché lo butti? E cosa ne fai? Dice, dammelo a me. Il giorno mi sono messo lì di santa pazienza a pulirlo, farlo, e poi gli ho fatto il condimento, aglio, prezzemolo, peperoncino con le budella girate e così via. Beh, lo sai che dalla volta, ogni volta che andavo, volevano fare lo zimino. Non le mangiano da quelle parti, lo so. Infatti mia moglie non le mangia. Lo mattiamo, non lo mangiano, manco l'interiore, niente. Cuore, fegato, tutta quella roba lì non la mangia. Esatto. Cuore, fegato, stesso nulla. Lo buttano via. E vabbè, abituati a quel modo lì, però ti posso dire, guarda, la carne, senti proprio veramente il sapore del maialetto. E loro hanno di meglio da mangiare, se ci accorgiamo di resimino, loro mangiano la carne. lo so, vabbè, figurati che adesso no, adesso sono parecchi anni. La mia suocera che in casa, diciamo, tuttora c'era il forno a legna, faceva pane in casa, le classiche pagnotte, tipo quel pane di sorso, la pagnotta, poi faceva il tondo, loro lo chiamano il tondo, altro pane. Ma di grano, diciamo, raccolto da loro, grano proprio, addirittura in paese c'è ancora un mulino vecchio dove vanno, diciamo, i piccoli vanno a macinarsi il grano e poi si fanno tuttora il pane. Sì. E quel pane lì lo usavano i pastori quando si allontanavano per portare le pecore, si allontanavano anche 2-3 giorni da casa, si portavano quel pane lì, lo facevano a fette, e quel pane lì è sempre, si tiene, non diventa raffermo, ecco, si tiene bene, e quindi lo facevano a fette e mangiavano quel pane lì. Esatto, allora veramente buono, da casa proprio al forno, guarda, era una cosa spettacolare. Tuttora lo fanno qualche panificio lì, lo fa, però non è come quello lì. Ma guarda, roba genuina, veramente roba genuina. Io adesso è un po' che non ci andiamo, comunque. Tutte le volte che ci andiamo lì, a parte, diciamo, il formaggio, a parte queste piccole provviste che si fanno loro, le salsicce, il lardo lo stesso, il lardo io quando scendo in paese delle volte me lo porto perché so che è proprio lardo, diciamo, lardo genuino. Lo rosa fatto sotto sale, così. Che lo sai, c'era un periodo, adesso no, adesso, cioè, adesso non me ne sto, diciamo, ritenendo, ma c'era un paio di anni addietro, mettevo giù in campagna, logicamente, nel caminetto, prendevo il lardo, lo facevo gocciolare sul panino, aprivo il panino, lo facevo gocciolare sul panino, poi una volta gocciolato portavo via il lardo, la cottena del lardo che era tutta brustolita in mezzo al panino, guarda, già una cosa micidiale. Ma anch'io, Amino, quante volte l'ho fatto? Mio padre il lardo lo faceva bello rosa, lo metteva sotto il sale, salipone lo chiama. Sì, esatto, salipone, proprio quel sale grosso diciamo che usano, diciamo, per conservare, diciamo, quello proprio giusto. Esatto, proprio quell'ardo rosa, con le venature rosa, che adesso è molto, ma molto difficile trovarlo, capito? E poi dipende sempre dalla bestia come lo allevi, perché adesso giù in paese, per dire, c'è mio compare che c'ha bestiame, lui bestiame, diciamo, è lo stato brado, là il bestiame mangia ghiande, mangia, in effetti se lo cerca, diciamo, lo aiuta un attimino con un po' di mangime, giusto d'inverno, ma d'inverno proprio quelle giornate, diciamo, perché giù scende la neve, quindi è cosa, poi per il resto sono allo stato brado. Sono un po' cinghiali, là. Mangiano tutto quello che trovano, anche le galline sono sbanti, il bestiame è tenuto così, c'è poco da fare, sono tutti liberi, magari che su ghiacciapani mangiano, così crescono veramente bene, no? Dateli, fave, gli danno fave da mangiare, fave secche, queste cose qua anche. Quando li allevano in inverno, che c'è neve e così, gli danno le fave. Arriva di mangiare la bava secca, la buglia. Sì. Fave, grano, insomma, tutta roba genuina, tutta roba nostrana, diciamo. Logicamente non è un maiale allevato, diciamo, in allevamento, dove è messo lì a forza di mangime, è portato all'ingrasso forzato, perché quello è portato, diciamo, al peso di macellazione, diciamo, forzato, quindi la carne non ha quel sapore lì. Infatti proprio da quelle parti la peste suina, diciamo, viene sempre prima, perché i cinghiali, si incrocia anche quei cinghiali quando sono stato bravo, lo sa? Sì, è quello capita molto spesso, perché è normale, essendo diciamo allo stato brado, vabbè, quello dipende dai punti in cui si trovano, perché secondo i punti, adesso io ho un amico lì su a Limbara, c'è questo mio amico Salvatore che abita proprio lì vicino a Limbara, sotto ai ripetitori, lui ci abita da anni lì. Vabbè che lì i cinghiali li vengono sotto casa e sono mezzo incrociati. Sì. In effetti questa peste suina sono i cinghiali che la portano, la contagiano anche ai maiali domestici, capito, come si accoppiano, come. E quindi da quelle parti è più facile che si prendano questa peste suina. Vabbè, comunque, la bova. Ma non è che Crone è andato a comprare il maialetto, no? Vengono attaccati al telefono e peggio vedo un coso, fa il piccione, fa piccionciato, proprio. Va bene, vabbè, già, dai, ti saluto che vado a farmi la mia passeggiatina, dai. Ciao, fatto anche la mangiata del porcetto. Ciao Alessandro, ciao, buona passeggiata. Comporti bene perché c'è umidità. Stamattina, ma lo sai che stamattina sembrava che avesse piovuto, talmente l'umidità che è scesa, e stasera mi sa che sia uguale. No, ho fatto la saziarmi perché sono bello pieno, guarda, con quella catena di maialetto mi sono ben riempito. E poi vicino al fuoco sono anche, mi devo cambiare il maglione perché sono pieno di fumo. Ciao già! Ciao. Comunque il cammino è troppo bello, è una cosa suggestiva proprio, stare davanti al cammino con la carne che arrostisce, è troppo bello. A chi lo dici? Oh, yeah. Io sono passato strato così perché cugino di mia moglie ci ha fatto, dove c'è la tavernetta, ci ha fatto il cammino proprio costruito, non di quelli prefabbricati, è fatto proprio dal muratore, di quelli proprio grandi, enormi, ci fa di tutto. Quindi le serate, molte serate le abbiamo passate. Ok. Sì, vabbè, ma dimmi quello che vuoi, però il camminetto ti dà quel senso di rilassamento, ti dà quel senso di compagnia. Guarda, il camminetto è tutta un'altra cosa. Mi ricordo, ti lascio andare tu, mi ricordo quando andavo in campagna di un amico. C'era il nonno che ci raccontava le storie vicino al cammino, della guerra, di questo e dell'altro. Intanto la carne cucinava, ma era troppo bello, ricordo che stavamo tutti attorno seduti con le sedie davanti, e poi dormendo, credo che fermentava ancora di più. Vabbè, è quello che è normale, sì, ma è tutta salute, dai, tutta salute, logicamente sono tutte abitudini logicamente ormai tramontate, ormai, adesso è tutta un'altra cosa, dai, tutto un altro paio di maniche. Ah, un'altra cosa particolare, la legna che è molto importante, come tu sai, diciamo, c'è un tipo di legna che dà anche il sapore, diciamo, alla carne. Vivo. Oltre l'olivo, adesso non mi ricordo, c'era un altro tipo di legna, che adesso non mi ricordo qual è. No, è esagerato, mogano. Io sono dovuto andare in casa da gusto. Sai, non avete visto quella cosa, quel servizio delle Iene dove ci facevano il pane a Napoli? Utilizzavano i tappi delle casse da mordo per cuocere il pane. No, guarda. Ma sto scherzando, il pane che vendono per strada, non sto scherzando, guarda, vai su www.iene.it e guardati il coso, cerca pane, metti come sul motore di ricerca pane e ti fa vedere il coso, i servizi. È vero, è vero. Sì, vabbè, dai, a Napoli questo ed altro, dai signori, io vi lascio, salutoni, buon tutto, alle prossime. Ciao, ci sentiamo, avanti, ciao, Massimiliano, ci sentiamo alle prossime, dai. No, non l'avevi visto, ma non le guardi le Iene ogni tanto? Le guardavo prima, non le sono più guardate. E sono utilizzate già oppure sono di quelle nuove? Aprono le bare per liberare i luculi, la legna delle casse la buttano, la smaltiscono chissà dove, ma non solo, le fanno sia con la legna delle casse da morto che anche con le ruote delle macchine, capito? Tu immaginati cosa ti danno da mangiare. Non c'è che facevo fumo niente, adesso. Tanto con me, due domeniche fa a Piandana c'era questo fumo denso, ma proprio inquinante al 1000 per 1000, che anche i vigili del fuoco, c'era questa fiammata altissima che si vedeva da San Nicola, quelli si dico che c'è, si vedeva questa fiamma, questo fumo denso. Ho chiamato i vigili del fuoco e dice sì, stiamo arrivando, ci hanno già avvisato, vabbè. Di San Nicola, non so se hai visto, c'è uno di Sassari che fa dei documentari e per filmare questi documentari sulla città di Sassari, ad esempio, ne ha fatto uno, ha ripreso il Duomo di Sassari con un elicottero su cui, cioè elicottero chiaramente radiocomandato, su cui ha montato una telecamera, ma tu devi vedere le immagini spettacolari, Sì, ma io ho fatto la San Nicola all'istituto, tu stai parlando della chiesa, del Duomo. Capito, infatti ti ho detto, a proposito di San Nicola, che a proposito, quando eri 4? niente con il San Nicola. Sì, quando è il martedì? Il 6 qui. Io non festeggio né San Nicola né San Gavino, niente. Ma vediamo anche il giorno di San Gavino. Similiano. Vediamo. Come c'era mai Massimiliano? È sembrato che è intervenuto, ecco, sì, è vero. Poi va per parte, Mauro. Ah, è Mauro, là. C'è la stessa voce. Mauro, ben sentito. Ben sentito. È vero, l'ho buttato anch'io quella delle ieri, che buttavano la legna delle casse da morto e facevano il pane. E non vai a mangiare, ma lei doveva essere Giulia. Mauro, ma come siete di sciopero? No, lo sciopero era martedì, adesso bisogna vedere se si muovono a rinnovarci questo benedetto contratto, se no a dicembre le facciamo 2 giugni consecutivi. Ma poi ho visto che ci sono passati i colmi, vicino a Grazella sono pieni zeppi, bisogna fare di tutto. Ma Grazella è una cosa patologica, guarda. Perché oltre a buttarla, chi abita l'autonomia se ne va a buttare anche nei metri comuni, quindi è una cosa normale in casino di cieli sempre. Ma fa buttarci da due tiri di plastica, perché stavo scendendo a lavorare e mia moglie mi ha detto, ma buttarci queste bottiglie di plastica, tanto non si possono buttare tutte le ore, quindi... mi sono dimenticato di buttarle, allora mi sono fermato lì, cazzo, ma era un casino, non ve l'ho manco pulire in pulla, nulla. Dicendo, quando volevamo fare un po' di cassa con la pulizia e con i zucchi, bastava fermarsi lì, ma lo sai cosa tutto lo scaricavano? Oh sì, l'altro giorno ho visto che era un mercato signore, anche anziano, sui 65 anni, 70 anni. Hanno beccato buttando la Mondezza i barracciti. Beh, non è tanto la Mondezza, capito? Il problema è quando scarichi altro. Quando scarichi altro, tipo residui di potatura, quando butti lavatrici, quando dico fai qualche chilometro in più e lo metti lo depositi nella stazione ecologica. Poi devo raccontare una. Allora, praticamente a Porto Torres prima ci ritiravano tutto anche differenziato, adesso non ritirano più né le cassette di plastica che noi utilizziamo per la frutta e né quelle di legno, quindi ci dobbiamo pensare noi. Quelle di plastica ce le ritira un privato che le macera e vabbè ci fa soldi da quelle cassette di qui, da noi sembrava che le portiamo. Poi di legno le portavamo lì all'isola ecologica, come stai dicendo tu. Ma per far che sia un giorno sono andato a scaricarle, praticamente mi hanno detto che non potevano più entrare perché erano andati non in asma, un altro ramo, vabbè, dei carabinieri, che praticamente gli hanno impedito di far entrare le macchine private. Gli hanno detto che se trovavano macchine private all'interno mettevano la multa sia a loro che a noi. E quindi siamo dovuti andare in comune, farci accettare, un casino qua. Adesso ce le stanno facendo buttare di nuovo, ma per dire, ci avevano bloccato, non ti mettono manco in condizione, la paghi tassa Mondezza, non ti mettono manco in condizione di buttare le cose, di ritirarti le cose, ritirarti e di buttarle via. Ma la cosa assurda, e questo me lo devono spiegare al comune di Sassari, come faccio io a fare una sanzione a una persona che non fa la differenziata e dopodiché autorizziamo una multinazionale americana come la McDonald's di mischiare plastica, lattine e carta tutte insieme, perché loro hanno i bustoni e nessuno fa la differenziata. Io non so perché glielo permettano. Non è che glielo permettano, lo fanno loro, se il giorno che li beccano li butti, eh? Solo che nessuno si mette a aprirti la busta per vedere la cerenza. Basta vedere come smaltisci, come tu sai come funzionano, ti alzi e scarichi il contenuto del vassoio, quindi c'hai polistirolo, perché ci sono alcuni contenitori che sono di polistirolo per mantenere la temperatura del panino, carta, lattina che ti stai bevendo, il bicchiere è di plastica, la cannuccia è di plastica, i fazzoletti sono di carta e alcuni panini vengono incartati col cartoncino. Io già ho messo poco perché la cosa, quando è più bella non è che ci mangi spesso, anzi, ma dopo ci avrò mangiato se è anche troppo. sono un gelato, quando vado alla città montata dico di gelato perché mi piace che è molto naturale, come lo fanno mi piace. Naturale, grasso idrogenato quello lì, figurati. Naturale, ui, di naturale non c'è niente col gelato. A prescindere da quello, l'unica cosa che si può mangiare sono le insalate e le macedonie da McDonald's, boh, nient'altro. Mangio nulla, perché una volta sono andato e tre DVD e sono stato a mal di pancia tre giorni, sono andato dal medico e mi ha detto, ma non è che hai mangiato in qualche fast food tipo McDonald's o bagliare? Tu sì, perché? E cosa hai mangiato? Roba fritta, le torresi, le patatine. Ecco, mangiate le cose che fanno male, quello io tengo un mese, non so che cosa, anche mio figlio era così, ha mangiato anche lui ieri, sicuramente anche nello stesso posto. Per fatto sta che mi ha detto, mi ha consigliato di non mangiarci più di, in quel possibile perché sono tutte cose conservate, cose, l'olio che usano a fare mille fritture, cose, fa un bel male. Perché non lo riciclano, non lo puliscono, lo cambiano quando gli pare e piace. Oh, aspettate un attimino. Questo posso asserire che non è vero, nel senso che hanno degli standard che devono rispettare, temporali, dopo i quali mettono in atto un protocollo per cui cambiano e puliscono tutto. L'unica cosa è che magari durante il trasporto la catena del freddo non venga rispettata, quindi di conseguenza le fettine hanno subito degli sbalzi termici, però a livello di olio queste cose qua hanno dei tempi dove lo devono cambiare, passato un certo numero di ore, anche se hanno fritto poche patate o se ne hanno fritte molte, comunque dopo un certo numero di ore devono rispettare uno standard, perché non si possono permettere, tu un McDonald's chiuso l'hai mai visto? Beh, quello no. Vabbè, tu sei sicuro che rispettino tutta la regola? No, io ne sono sicuro perché per il tipo di laurea che sto prendendo, sì, ne sono più che sicuro, per averci fatto anche tirocinio, non dal McDonald's, ma ci sono passato. A prescindere da quello, se chiedi, ti fanno fare anche la visita all'interno delle cucine. E vabbè, comunque a me, io mi ha segnato, vuoi fare un'altra cosa, a me personalmente non mi piacciono e non le mangio. I miei figli gli piacciono e li mangiano, a mia moglie lo stesso, a me non mi piacciono e non le mangio assolutamente. Sì, si può contestare a livello qualitativo, cioè mi puoi dire che per quanto rispettino anche lì uno standard, il problema è che non rispettano una catena del freddo, per cui magari lo scaricano dal camioncino, prima di metterlo dentro il frigo passano minuti, se non ore, è lì che la cosa si deteriora. Però se, una cosa che vi sconsiglierei è quella di andare a mangiare dal cinese, quello proprio mai. Anche quello non ci vado. Guarda, io l'unico vado qualche volta è vado a Renato via Roma o da Roberto via Napoli a mangiare un capriccio, un panino così, basta, boh, ma non più di tanto. Io ti dico che più che Renato preferisco Roberto o Lady Domini, molto meglio, a dirti la verità, perché Renato è a volte fa dei panini che sono un attimino troppo pesanti, quindi 10 lode Lady Domini. Roberto li fa... No, io ti sto dicendo quello che c'è alla fine di via Napoli, non quello prima. Aspetta, quindi tu stai dicendo il fratello di cosa, di Renato? Quello che c'era prima, come si chiamava, quello... Da Paolino. Oh, Paolino, quello lì è il fratello di Renato, proprio il fratello, che non è il Lady Domini, che è molto più in giù, come stava dicendo appunto Mauro, è più vicino, diciamo, allo svincolo di via Duca degli Abruzzi. Più o meno là risulta. No, io li ho mangiati da lui e li fa voi. Se devo dire non c'ho niente da dire. Infatti io mi ha detto, io già ce l'ho avrato negli anni, infatti non ricordavo mica era fratello, perché io ci andavo un sacco di anni fa da Renato, ma tuttora vedo Renato lo stesso c'è sempre pieno. Sì, ma ti ripeto, non ha mai avuto crisi, assolutamente. Poi tu immaginati quanto guadagnano panino. È un po' come i fuis, anche i fuis già si difendono bene. Ma io dai fuis, francamente, mangio il panino da loro non ci andrei. Quelli là lo stesso hanno un ricarico tale che la cosa ce l'hanno sempre fresca, capito? Sì, Sì, ma io ci ho mangiato, ma l'ho mangiato sia al cappuccio da Roberto, e si è andato con il Wurzel, mia moglie si è appena preso l'hamburger, e ti devo dire che le fa buone tutte. Ma anche quello che c'è dietro lo spazio, mentre parlate uno non si capisce nulla, se no, parla uno, parla l'altro, vi siete sovramodulati, ovvio. Che è permesso, però. Vai. Allora, ho detto che anche quello dietro le carceri vi fa buono, quello di Porto Torres. Non so chi sia dietro le carceri, via Mazzini. Via Mazzini, adesso. Praticamente c'è un ragazzo con Rottolo, si rifà molto buono, ho mangiato parecchie volte, fa molto buono. Comunque c'è lo specialista per me, ne è uno a Porto Torres che gli fa un bel buono, un bel baro, belli pieni, i panni morbidi, belli scaldati bene, perché tante volte non li scaldano, me li devono scaldare, i panni non mi piacciono. Guarda, lo specialista di Porto Torres secondo me è Bruno del Pol Diavolo, quello è davvero specialista. E quello che c'è dietro, per andare a San Gavino, dietro, è uno che prima si cava le ridome e adesso ce l'ha lui. Stai dicendo il coccodrillo? Dillo è di fronte alla piazza del comune dove c'è la chiesa, cioè se ti metti alle spalle della chiesa, ti metti la chiesa alle spalle, c'è sulla sinistra, se ti metti di fronte alla chiesa è sulla destra. Sì, come andare? Io conosco, come si chiama quello lì adesso, ce n'è uno che fa il panini, però non si chiama più. C'è quello della piazzetta, Bruno del Pol Diavolo, lo sai chi è, sì. Quello che c'è di fronte al, come si chiama, al Cristal? Cristallo. Scusa? Cristallo. Cristallo, sì. Sull'angolo opposto. Io ho capito, già ho visto, sì. Sì, già ho capito, ma non sono mai andato. Non ci sono mai andato, è una pizzeria. Piatti composti, però fa anche panini, è davvero bravo. Ma quello che dico io è un po' nascosto, non è in piazza, rimane un po' nascosto, però c'ha un bel pizzeria, paninocchetta, eccetera, eccetera. Sono molto puliti oltretutto, quello lì a me interessa molto la pulizia. Se vedo che è un posto, io lo noto molto, molto quando fanno i panini, ci sono quelli che li passano al vaschetto, puliscono, fanno, ci sono, li mettono anche l'aceto per disinfettare. Ci sono certi che proprio vanno dei bagni, non ho provato tutta la carnetta nuda. Altro dove si mangia bene a Porto Torres, che non è una paninoteca, ma è un piccolo ristorante, una taverna, chiamiamola così, è da Bodale. Lo so, più su la Garibaldi rimane, più prolungamente. Sabato fanno, fra l'altro, il giro pasta, 12 euro e mangi quello che vuoi. Lo pasta? Dava gara. Poi, ma la pasta è sempre un bello, ma con il giro pinta le scuole. C'è gente che se la mangia sino alla Nutella, ma io butto. Ma perché io ho dei gusti particolari, non sai che tu metti 50 pizze e preferisco una che mi piace, preferisco mangiarla così la pizza, non sai che tu metti 50 gusti che a me non piacciono, così. Ma no, ma infatti poi aspetta, se ci pensi la pizza con la Nutella altro non è che abbiamo, quando pensiamo alla pizza stiamo pensando al sugo e alla mozzarella, però se consideri la pasta è quella del pane, quindi nel momento in cui ci metti la Nutella ti stiamo mangiando un panino con la Nutella. Ma dico io per dire, le uniche pizze che mangio sono i frutti di mare, zuppetta di mare, poi tonno e cipolle. Se meno male che te lo prendi leggero, e i petardi non ce li metti? Riprendi, ma... Ho una, l'altra, l'altra. Vabbè, la mangia per rimanere leggero. Girottata cosa fa pagare a persona? Euro a persona, e credo che possa mangiare quello che vuoi. Giustamente le bibite a parte. Vittor, aspetta che chiedo. Le bibite a parte. È normale, 10 euro non ti puoi mettere anche le bibite. Vabbè, comunque non è neanche molto, perché anche se spendi un attimo 15 euro, 20 euro a persona, la ti sappi bene. 20 euro sei già, è il prezzo che fa normalmente per parti primo, secondo e contorno e tutte cose. Con 20 euro ci mangia la grande lì. Ma di terra o di mare? Terra e di mare. A 20 euro c'è di terra e non di mare? Allora, di solito fa questo, antipasti misti dove a volte ti mette anche le ostriche, dopodiché c'è il primo, ti fa due primi, di solito sono pasta alla podale e poi un altro un risotto, un'altra cosa, dopodiché ti fa un fritto misto di calamari, moscardini e tutta un'altra serie di cose, poi caffè, amata caffè e vino della casa, e tutto è 20-22 euro scarsi. E quindi è abbastanza normale, ragazzi. È buono come prezzo. Va bene signori, grazie per la chiacchierata, mi sentite, io adesso chiudo, mi curco che mi tocca la sveglia alle 3 del mattino. Per essere alle 4 al lavoro e domani si riprende perché ero un giorno malato, un giorno malato e mi sentivo male. E quindi nulla, domani si riprende fino a sabato mattina. Mi sentite, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao, ci sentiamo. Buonanotte. Ben sentito, ben ascoltato, buon 144 e buon trabacco per domani. Ciao ciao. Ehi, oggi abbiamo mangiato porcetto, pasta, di tutto. Infatti non ho mangiato, c'ho gudeccio già. Ma argomenti migliori quando uno cerca di fare dieta, non è avvento. Infatti. Anch'io sono a dieta che ho fatto strallere, devo avere il colesterolo a 2000. Mi hanno regalato l'altro giorno, ieri, mi hanno regalato questo vino, mi ha detto, già se lo vuoi assaggiare ho fatto la base, però dice, quando faccio il vino proprio lo faccio assaggiare, questo cliente. Ma ha questa base mi cappotteggia, non so quanto è forte. Perfino. Immagino, io invece ho fatto la birra e secondo come sei inacidita, perché l'ho tenuta in una condizione non ottimale. Come ti esce questa birra? Solito buona, diciamo bevibile, però è strana, non lo so, forse perché non ho utilizzato il lievito giusto. Ma gasata? Sì, assolutamente, anche più del normale. La gasi mettendogli lo zucchero, no, che viene trasformato dai lieviti in anidride carbonica che va a gassare la bottiglia quando è chiusa. Come è fatta? Non so manco come si faccia. Difficile, guarda, ma la che ti vada ti esce comunque meglio di quella commerciale, se la fai bene. Però se non usi determinate accortezze, come spero di non aver utilizzato, lo spero di aver utilizzato io, però ne ho aperto una ed era un po' acida. Boh, adesso controllo le altre. Grado alcolico? Alcolico lo puoi decidere tu in base al contenuto, diciamo, della bottiglia, aggiungendo più o meno quello di comunque in fermentazione che si fa in base ai litri che hai prodotto, aggiungendo lo zucchero, perché i lieviti di birra aggrediscono lo zucchero e digerendolo lo trasformano in alcol e anidride carbonica. L'anidride carbonica serve per gassare la bottiglia, l'alcol rimane lì, chiaramente in base alla quantità di zucchero che metti rispetto ai litri ottieni un certo grado alcolico. Quindi la birra ci mette anche lo zucchero? Fa bene di avere, no, intanto perché viene digerita, comunque ha un alto potere calorico assolutamente, ma poi non lo senti lo zucchero per questo motivo, perché viene digerito dai lieviti. È trasformato da zucchero in alcol, così. L'anidride carbonica, sì. La fai in bottiglia da litro, così? Se mi capi, se l'ho fatta bene me la bevo, se l'ho fatta male te ne devo una bottiglia. Te ne tira il gomito. Ti fa venire a cagarella anche nel domani, se sei stitico, che è la mano di Dio ti fa. Già che non bevo, cappella anche cattiva. Quindi non lo sai se è buona o cattiva, io ti dico che è buona e te ne fai una tasata. Uiaiai, caro Gianni, qua è pieno di gente che in ferie, gente che non vuole entrare in frequenza, gente che sta lavorando, gente a cui piace ascoltare e non partecipare. Ognuno è libero di fare ciò che le pare, cioè non come vogliono e come credono. Libertà, ed è giusto che sia così. Sapa Roger. Dai. Ore 11:20, mi sa che mollo anch'io perché domani mattina devo far finta di alzarmi presto. Pure, non c'è problema, dai. Lascio, ti saluto, ti auguro buonanotte. Ciao. Ricambiato al 100, buon trabacco per domani e ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao.